Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 30 marzo del 1992 e siamo a Los Angeles, al Dorothy Chandler Pavilion, dove è in corso la 64esima notte degli Oscar. Sul palco, il presentatore della serata, l'attore comico Billy Crystal, che ha appena chiamato Barbara Streisand, deve annunciare il vincitore della statuetta per il miglior regista. This award is for the best director. And it is my privilege to present it tonight. È un onore per me presentare stasera il riconoscimento che premierà la miglior regia. I candidati sono Neil Jordan per La moglie del soldato, James Ivory for Howard's End, James Ivory per Casa Howard, Robert Altman for The Player, Robert Altman per I protagonisti, Martin Brest for Scent of a Woman, Martin Brest per Profumo di donna, Clint Eastwood for Unforgiven e Clint Eastwood per Gli spietati. È una cinquina controversa quella del 1992. Come spesso accade con gli Oscar, alcune candidature lasciano intravedere logiche decisamente più commerciali che artistiche. La candidatura di Martin Brest, ad esempio, per Profumo di donna ha fatto molto discutere. Nella cinquina però c'è la candidatura per la regia di un film che ha messo d'accordo tutti, critica, pubblico e addetti ai lavori. Uno straordinario western, Gli spietati. Regia di Clint Eastwood. Clint Eastwood. And the Oscar goes to Clint Eastwood for Unforgiven. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno, trasformare una passione in una professione. Non a tutti è concesso questo privilegio. Eastwood, secondo il protocollo, riceve la statuetta e ringrazia. Clint è commosso e forse un po' stupito. Per uno come lui non era facilmente pronosticabile un percorso così brillante dietro la macchina da presa come raffinato cantastorie. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Il duro e cinico cowboy senza nome. Eastwood aveva fatto così il suo ingresso nel mondo del cinema, come una maschera inespressiva. E proprio per questo efficace, scelta tra mille possibilità dal fiuto di Sergio Leone. Ma se l'incrocio con Leone ha lanciato la sua carriera di attore, quale incontro ha determinato l'avvio della straordinaria carriera di Eastwood regista? Facciamo qualche passo indietro e capiamo prima insieme chi è Clinton Eastwood Jr. Alcuni di voi avranno certamente riconosciuto questo motivo. Scritto da Ned Washington e Dimitri Tiomkin, si tratta della sigla di Rawhide, una celebre serie televisiva americana andata in onda a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 negli States, poco dopo anche da noi. È il primo grande successo di Eastwood come attore. All'epoca di Rawhide, Eastwood ha 30 anni. È nato infatti il 31 maggio 1930 a San Francisco da una famiglia protestante appartenente al ceto medio. La famiglia Eastwood sottopone Clint e la sorella Jean a numerosi spostamenti in diverse città della California, assecondando gli impegni lavorativi del padre. Durante l'adolescenza e durante gli anni del college, Clint si cimenta con diverse professioni e rifiuta il suggerimento di un suo docente del liceo che lo spinge a seguire una scuola di recitazione, notando in lui una buona dose di talento. Lui però rifiuta. Dopo essersi diplomato nel 1949, Eastwood si iscrive alla Seattle University nella facoltà di musica. Tuttavia, nel 1950, solo un anno dopo, viene chiamato alle armi nell'esercito americano. Sono i tempi della guerra di Corea, ma Clint rimane in patria, a Fort Ord, in California. Qui capisce una cosa. Anche se al primo approccio ha respinto il cinema e la recitazione dalla sua vita, questa fa di tutto per assomigliare a un film. L'avventura che gli capita proprio alla vigilia della partenza per la Corea ha dell'incredibile. È l'ottobre del 1951. Un Douglas Ed-1, un aereo militare dell'esercito degli Stati Uniti, si è appena schiantato a poche miglia dalla costa della California durante un'esercitazione. A bordo ci sono 5 persone. Una di queste è proprio Clint Eastwood. L'aereo su cui si trovava Clint, partito da Seattle, si è inabissato nel Pacifico, a qualche miglio di distanza dalla costa di San Francisco. Eastwood riesce miracolosamente a salvarsi, non riporta ferite nell'impatto. Esce dal velivolo e senza esitare parte a nuoto verso la costa, trascinando con sé il pilota dell'aereo ferito. Francamente pensavo di morire, ma in una frazione di secondo mi sono ricordato di aver sentito qualche tempo prima una notizia che diceva proprio che un uomo si era salvato da un disastro aereo nuotando per diverse miglia. Mi sono detto, ce la posso fare anch'io. Così ho individuato le luci della costa e ho iniziato a nuotare, non pensando alla fatica o agli squali. Clint è un atleta. Durante gli ultimi anni delle superiori e durante l'anno di servizio militare è diventato un abile nuotatore. Ha inoltre seguito un corso per diventare guardia del corpo, per superare il quale ha dovuto sostenere pesanti allenamenti fisici. Clint quindi raggiunge la riva e si salva. Viene poi chiamato a testimoniare al processo e per il suo gesto eroico viene dispensato dall'arruolamento in Corea. Nel periodo immediatamente successivo all'incidente aereo, Clint trascorre un periodo di convalescenza e riposo in California. Qui conosce un tale che si chiama Chuck Hill, un perfetto sconosciuto che però fa l'impiegato alla Universal. Hill gli ripete ciò che tempo addietro gli aveva detto il vecchio professore: «Hai proprio una faccia da cinema». Dalle parole passa ai fatti. Fa vedere una foto di Clint alla responsabile della sicurezza degli studio, che, colpita dall'avvenenza di quel ragazzo biondo per 1,95 m, accetta di farlo entrare negli studi hollywoodiani della Universal. Hill può portare Clint da un vecchio amico cameraman, Irving Glassberg. Mi disse, questo ragazzo è proprio lo stereotipo del ragazzone biondo che nel cinema americano ha sempre avuto successo. Mi disse che mi avrebbe presentato Arthur Lubin, direttore artistico della Universal. In quel periodo avevo appena iniziato a lavorare ad una pompa di benzina la sera. Lubin venne a trovarmi lì, alla stazione di servizio. Feci il mio primo provino in una pompa di benzina. Clint si ritrova subito catapultato nella scuola di recitazione della Universal. È il primo gradino della sua folgorante carriera. Timido, un po' impacciato, aria sonnolenta, un po' Modadamo un po' troppo pronunciato. È il primo Clint Eastwood, quello che esce dalla scuola di recitazione delle Universal, quello dei primi lavori e dei primi provini, quello degli anni 50. Inizialmente riluttante a intraprendere definitivamente la carriera di attore, Clint, dopo il corso di recitazione, decide che quella è la sua strada. Arthur Lubin, direttore artistico della Universal, non è però altrettanto convinto. Così, dopo averlo utilizzato come comparsa in alcune produzioni, lo licenzia in tronco. Come arriva quindi Clint al successo di Rawhide, di cui parlavamo all'inizio? Per 2 anni Eastwood vive davvero spiantato e nel periodo più buio della sua carriera e della sua vita. Una sera, insieme all'amico Floyd Simmons e alle rispettive donne, Clint va a cena fuori. Fuori dal locale, a Palo Alto, un gruppo di facinorosi avvicina il quartetto e addita Eastwood come un bamboccio hollywoodiano. L'ha visto in ruoli minori in qualcuno dei suoi film Universal. Nel giro di pochi istanti, Eastwood li ha già stesi tutti. Floyd Simmons gli dice: «Ehi, ma sai che saresti perfetto nelle parti da duro?» Il giorno dopo, Eastwood è già a colloquio con Bill Schifrin, un agente hollywoodiano specializzato in duri. Qualche giorno dopo ancora, Clint sta facendo il provino per Rawhide. Al provino, il produttore Charles Marquis Warren mi chiese solo: «Ma quanto cazzo sei alto?» 1,95, risposi io. Mi fissò, non disse nulla. Pochi giorni dopo avevo la parte. Rawhide è un grande successo, non c'è dubbio, e permette a Eastwood di diventare piuttosto noto negli States. La sua fama però nel mondo del cinema è piuttosto controversa. Sentite cosa dice di lui Gene Fowler, uno dei registi della serie televisiva. Clint è la pigrizia fatta persona. Ha sicuramente talento, ma è di una lentezza esasperante e fa di tutto per evitare la fatica. Nelle puntate che ho diretto, non ho mai iniziato la mia giornata di lavoro mettendo Clint nella prima scena. No, perché non è mai puntuale la mattina. Gli piace dormire a lungo. jolly good. Rawhide va in onda per 7 anni. I primi 3 sono di eccezionali consensi di pubblico e di critica. Poi arriva il calo. Nel 1963 però, per Eastwood c'è anche il primo grande incrocio della sua vita, quello che dà una svolta alla sua prima carriera. Nei titoli del film Gli Spietati, il film che gli porta l'Oscar come regista nel 1992, c'è una dedica a 2 persone. La prima di queste, naturalmente, è Sergio Leone, il regista che ha impresso una svolta determinante al suo percorso di attore. Nel 1963 Sergio Leone è alla disperata ricerca di un protagonista per il suo primo western. Carlo Verdone ricorda il modo in cui il regista romano arriva a scegliere Eastwood per il suo film. Inizialmente Sergio Leone chiese alla produzione americana dei nomi molto grossi, Henry Fonda, Charles Bronson, ma questi non conoscevano il giovane Leone. Per loro era un pischello. Quindi spararono molti soldi pur di non fare il film. E allora a Leone fu suggerito il protagonista di una serie televisiva che andava di moda in America, si chiama Rawhide, dove c'era questo giovane attore, si chiama Clint Eastwood, famoso per la sua indolenza, per i movimenti lenti, per avere sempre quest'aria, direi, molto molto stanca. Però gli dissero anche che quando c'era il momento di fare l'azione, improvvisamente diventava dinamico, energico, aveva gli occhi da cobra. Lo stesso Verdone rievoca un altro aneddoto, questo molto divertente. Il primo colloquio tra Eastwood e Leone. Quando arrivò a Cinecittà, gli disse: piacere Sergio. Solo guardò 5 minuti in silenzio. Hai viaggiato bene? Sei atterrato bene con aereo, sì? Albergo è buono? Hotel buono? Allora, portatemi un po' un poncio. Mettete io un po'. Mi portate una barba di 2 o 3 giorni? Gli applicate, per favore? Scusa, Clint, devo vedere un po' di cose. Cappello? No. Portatemi un cappello un po' da damerino. E scelsero questo. Non lo voleva con le tese tipiche da cowboy, ma lo voleva piuttosto così, un po' particolare, proprio l'anti-western per eccezione. E a un certo punto gli disse: Clint, mi fai una cortesia, prova un po' a mettere questo in bocca, io ficco così. Clint Eastwood disse: ma Sergio, I don't smoke. No. A Clint gli rispose Leone: ma che lasciamo a casa il protagonista? Vabbè, ci rivediamo domani per la prova di trucco dalla faccia. Ciao Clint. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Sergio Leone, quindi, dando forma al personaggio leggendario della trilogia del dollaro interpretata da Eastwood, ne lancia la carriera a livello internazionale. Tuttavia, se Clint oggi è considerato una leggenda del cinema, non è certo per le sue doti di attore, che per quanto affinatesi nel tempo, non sono certo irresistibili. Oggi Eastwood è considerato dalla critica e dagli spettatori di tutto il mondo uno dei registi più grandi tra quelli in attività, una vera e propria leggenda vivente. Cosa fa svoltare quel ragazzone alto e indolente verso la regia? L'uomo dalla cravatta di cuoio. Vi dice niente? È il titolo italiano di un film del 1968. Coogan's Bluff è il titolo originale. Si tratta di un poliziesco con tratti palesemente western, o meglio, un western metropolitano, crudo e violento. Clint Eastwood ne è il protagonista. Dal 1963, anno di Per un pugno di dollari, sono passati 5 anni, un periodo in cui Clint è diventato un attore tra i più richiesti e quotati di Hollywood, grazie a parti da duro in film come Dove osano le aquile, I guerrieri, Impiccalo più in alto. Quel film però, L'uomo dalla cravatta di cuoio, lo porta a lavorare con un regista che lascerà un segno profondo nella sua carriera. Si tratta proprio di quel secondo nome nella dedica de Gli Spietati, Don Siegel. Don Siegel. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like. Destini incrociati. Oggi vi stiamo raccontando la storia di Clint Eastwood, sicuramente uno dei più grandi tra i registi di cinema ancora in attività. La sua carriera di attore era decollata dopo infinite peripezie nel 1963, quando Sergio Leone, dopo averlo visto nella serie TV Rawhide, l'aveva scelto come protagonista di Per un pugno di dollari. Nel 1968 Clint accetta la parte del protagonista in L'uomo dalla cravatta di cuoio. Questo film segnerà l'inizio del sodalizio più duraturo della sua carriera di attore, quello con il regista Don Siegel. Quella tra Clint Eastwood e Don Siegel è un'unione artistica destinata a condizionare in maniera determinante la scelta di Clint di passare dall'altra parte della macchina da presa. Ma andiamo con ordine, scopriamo insieme qualcosa di più su Don Siegel. Donald Siegel, da tutti chiamato Don, è nato a Chicago il 26 ottobre del 1912. Il suo destino è quello di molti registi di Hollywood, considerato per anni nulla più che un semplice mestierante, un valido e solido artigiano, è stato poi riscoperto e rivalutato da critici e appassionati diversi anni dopo la fine della sua attività. Siegel, dopo un percorso di studi in scuole di impronta cattolica, si sposta in Europa, in Inghilterra, per completare la sua formazione. Si laurea all'Università di Cambridge, in Gran Bretagna, dove frequenta la Royal Academy of Dramatic Art. Il suo primo sogno è quello di diventare attore. Volevo recitare, sì, e pensavo che l'Inghilterra, la patria di Shakespeare, potesse essere più stimolante. Quando Siegel torna negli Stati Uniti, trova un primo impiego nel Contemporary Theater Group di Hollywood, il gruppo di teatro sperimentale più importante di Los Angeles. Nel frattempo, Don entra del tutto casualmente nel mondo del cinema, in cerca di un lavoro che gli consenta di arrotondare la paga piuttosto scarsa che prende come attore, viene assunto come bibliotecario dalla Warner Bros. Qui Siegel entra in contatto con molti personaggi influenti della Mecca del cinema, che si recavano nella vasta biblioteca degli studio per consultare l'immensa collezione di libri. Gli anni 30 sono stati un periodo in cui il rapporto tra Hollywood e la letteratura era molto stretto. Forse per questo motivo, lavorando nella biblioteca della Warner, ho avuto modo di incontrare e conoscere registi e sceneggiatori molto importanti. Poi si sa come vanno queste cose, c'è la passione, si scambiano due parole e da cosa nasce cosa. Negli anni 30 il paese è sconvolto dalla Grande Depressione, le tasche sono vuote, ma i cinema sono comunque pieni. La gente vuole alleviare le sofferenze della quotidianità investendo i pochi spiccioli rimasti nei sogni di celluloide fabbricati sulle colline di Los Angeles. Stessa cosa negli anni 40, quando il paese si impegna in guerra e la società civile sente un irrefrenabile bisogno di svagarsi e di sorridere. In questo contesto la produzione di film in America numericamente aumenta a dismisura. C'è un bisogno crescente di mestieranti vari, montatori, scenografi, costumisti, scrittori. Siegel abbandona presto la sua carriera di attore e si butta con successo dall'altra parte della macchina da presa. Montatore, addetto agli effetti speciali e aiuto regista di Raoul Walsh, Michael Curtis e Howard Hawks. Da questo lungo periodo di apprendistato imparerà molti trucchi del mestiere che gli torneranno utili per il suo futuro lavoro di regista. Il primo lavoro di regista di Don Siegel arriva nel 1946 e si intitola La morte viene da Scotland Yard, un giallo ambientato tra la nebbia dei vicoli di Londra con Sidney Greenstreet e Peter Lorre. Sul piano personale, Siegel nel 1948 sposa l'attrice Viveka Lynfords. Un matrimonio brevissimo, il primo di tre. Divorzia infatti nel 1953. In quello stesso anno dirige Le ore sono contate, uno dei tanti affascinanti esempi dello straordinario cinema di serie B statunitense degli anni 50. Come dice il titolo, le ore sono contate. Infatti viene girato in soli 9 giorni, con un budget ridottissimo. La storia racconta di un cameriere accusato dell'omicidio dei 2 coniugi per i quali lavora e che si dichiara colpevole per far cessare le sofferenze della moglie incinta, sottoposta a estenuanti interrogatori. Il suo avvocato però è convinto della sua innocenza e porta avanti le indagini. Si tratta di un film interessante, senza dubbio. Soprattutto per le condizioni di ristrettezza in cui è stato girato. Sai, quando ti trovi a dover girare in 9 giorni un film, fai di necessità virtù e impari molte cose che normalmente non avresti mai imparato. È molto formativo. Rapido, preciso, asciutto nello stile, Siegel mette a frutto tutto ciò che ha imparato a fare dietro la macchina da presa qualche anno dopo, in 2 film memorabili come Rivolta al blocco 11 e soprattutto nel film di fantascienza L'invasione degli ultracorpi. Per Don Siegel la strada sembra questa: piccoli budget, ambizioni ridimensionate, grandi successi al botteghino. Il regista va avanti nel cinema di serie B fino alla metà degli anni 60. Dopo il successo di film come Contratto per uccidere, però, la sua carriera sembra imboccare un lento declino, infila qualche insuccesso, i produttori non lo chiamano più con l'abituale assiduità. Don arriva anche a prendere in considerazione l'idea di abbandonare il cinema. Beh, diciamo che avevo perso gli stimoli. La mia carriera non decollava e mi stavo stancando di lavorare in film a basso budget, in condizioni spesso precarie. È vero, volevo abbandonare. Poi, però, ricevetti quella telefonata di Clint. La telefonata a cui fa riferimento Siegel è quella che Eastwood fa al regista nel 1967, su pressione di Jennings Lang, un produttore della Universal, ex agente del regista, che si ritrova per le mani una sceneggiatura di Herman Miller intitolata Coogan's Bluff, l'uomo dalla cravatta di cuoio, e decide di portarla sullo schermo. Vuole Eastwood protagonista e pensa a Siegel come regista. Vuole però il benestare di Clint e spinge affinché regista e attore si incontrino. Ci incontrammo prima dell'inizio delle riprese. Lui mi disse che non sapeva se accettare o meno perché stava meditando se lasciare o meno il cinema. Io nel frattempo mi ero documentato su di lui, andando a vedere i suoi vecchi film. Gli dissi che assolutamente avremmo fatto il film insieme. L'incontro tra i due è prima di tutto l'inizio di una grande amicizia. In secondo luogo, segna l'avvio di uno splendido sodalizio professionale non privo di scontri. Ricordo molto bene che Clint, poche settimane dopo aver firmato il contratto, pretese una riunione con me e con gli sceneggiatori del film. Disse: ho accettato, sì, ma la sceneggiatura non mi piace per niente. Fu l'inizio di un percorso infinito, perché lo script fu rifatto per 7 volte prima di giungere ad un risultato soddisfacente. Questo sodalizio, così forte e così intenso, porta quindi Siegel a decidere di continuare la carriera di regista. Ma l'effetto di spingere Eastwood a cimentarsi anche dietro la macchina da presa. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Destini incrociati. L'uomo con la cravatta di cuoio è il primo film che Don Siegel, regista, e Clint Eastwood, attore, girano insieme nel 1968. È un film poliziesco duro, spietato. Duro e spietato, soprattutto, è il personaggio interpretato da Eastwood, lo sceriffo Walt Coogan. 1971, un anno chiave per leggere bene la carriera di Eastwood e per capire quanto a fondo abbia inciso su di essa il legame con Don Siegel. Il regista, infatti, avrebbe voluto abbandonare il cinema, frustrato da una carriera che stentava a decollare. Eastwood l'ha convinto a non farlo, e fa benissimo. Dopo altri 2 discreti successi ottenuti insieme, Gli avvoltoi hanno fame e La notte brava del soldato Jonathan, nel 1971 Siegel si trova nelle mani una sceneggiatura a prova di bomba. Il titolo è Dirty Harry, letteralmente Harry la carogna. In Italia si tratta di L'ispettore Callaghan. Io so quello che pensi. Ti stai chiedendo se ho sparato 6 colpi o solo 5. Ti dirò che in mezzo a tutta quella baraonda ho perso il conto io stesso. Ma dato che questa è una Magnum 44, cioè la pistola più precisa del mondo che con un colpo ti spappolerebbe il cranio, devi decidere se è il caso. Di, ne vale la pena? Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo, ispirato ai fatti di cronaca legati al serial killer Zodiac, è uno dei film più famosi di Clint Eastwood. Un successo così grande da generare una saga di ben 5 pellicole. Il film cala Eastwood nei panni di uno dei personaggi più duri della storia del cinema. Callaghan. Sì? Non combini altri pasticci come quelli dell'anno scorso nel settimo distretto. Ha capito? Sono stato chiaro? Sì, però... quando un maschio adulto aggredisce una donna con l'intenzione di violentarla, io l'uccido. Sono stato chiaro? Intenzione. E come ha fatto a stabilirlo? Quando un uomo nudo rincorre una donna in un vicolo con un coltello in mano e con l'affare di fuori, non credo voglia raccogliere fondi per la Croce Rossa. Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo, non è solo il film della definitiva consacrazione sia per Eastwood che per Siegel, del film che di fatto proietta in maniera definitiva il regista fuori dalla palude dei B-movie in cui era rimasto per decenni. Sul set di Dirty Harry, Eastwood confida all'amico che uno dei suoi sogni sarebbe quello di dirigere un film, di fare il regista e il produttore. Siegel non solo lo incoraggia, ma gli promette di insegnargli il mestiere e di supportarlo passo per passo nel suo film d'esordio. Esordio che avviene proprio nel 1971. Brivido nella notte. Una storia bollente di sesso e ossessioni. Eastwood fa così il suo esordio come regista. Film non eccelso, ma poco importa. Con lui dietro la macchina da presa c'è la sapiente guida di Don Siegel che lo aiuta e lo supporta. Eastwood lo premia facendogli recitare un piccolo ruolo, proprio Siegel che da giovane sognava di diventare attore. Don Siegel è stato senza dubbio la persona più importante nel processo di trasformazione che mi ha portato a diventare regista. Non è un caso che qualche anno più tardi, quando Clint gira il suo secondo film, si senta di tributare al suo mentore un singolare omaggio. In un'inquadratura del film, il personaggio da lui interpretato si ferma a guardare due lapidi. Su una c'è il nome di Sergio Leone, sull'altra Don Siegel. Un modo per riconoscere, omaggiare e simbolicamente sotterrare i propri padri artistici. Quello che l'ha formato come attore, Leone, e quello che l'ha formato come regista, Don Siegel. Con Leone ha girato 3 film, con Siegel ne ha girati 5. Ma da quest'ultimo ha ereditato tutta la passione per la regia. Torniamo là dove la nostra storia è iniziata, nel 1992, a Los Angeles, notte degli Oscar. Clint Eastwood brandisce la sua statuetta come miglior regista. Grazie, grazie a tutti di cuore. Devo dire che, non è poi così male vincere un Oscar. Il suo straordinario western crepuscolare, Gli Spietati, si è portato a casa ben 4 statuette e tutta Hollywood l'ha consacrato miglior regista. È solo l'inizio. Un mondo perfetto. I ponti di Madison County, Million Dollar Baby, Mystic River, Gran Torino. Sono solo alcuni degli straordinari titoli diretti da Eastwood regista. Gli Spietati, però, ha un sapore particolare. Perché il primo Oscar, certo. Perché è un western, il suo genere prediletto. Quello che l'aveva lanciato insieme a Leone. Ma soprattutto perché viene girato con il cuore rivolto all'amico Don Siegel, che scompare a 79 anni, proprio poche settimane prima che le riprese abbiano inizio. Il film, benché sia un duro, durissimo western, trasuda malinconia ed è una sublime riflessione sul tempo che passa. Ehi, Will, tu ci vai mai in paese? Ogni tanto, a vendere un maiale, a comprare provviste. No, io dicevo a farti una femmina. Impossibile che la felicità di tocco con cui Clint l'ha girato non dipenda dalla commozione seguita alla scomparsa del grande Don Siegel. In conclusione dei titoli di coda del film, infatti arriva la dedica. Questo film è per Don. E probabilmente anche quella prestigiosa statuetta. Run!